una pasta che abbiamo tutti, una fame brutta di libertà, di una nuova speranza. Abbiamo bisogno di fratellanza. Mettici del sale che gli dà sapore, un pizzico di sole che gli dà calore. Mettici dell'olio, un po' di parmigiano, non dimenticare l'origano, l'oro del Vesuvio, un pomodoro rosso. Fai bollire a punto, cotta a punto giusto, come il tuo cuore intero che lotta per il cielo. Invita il vicinato, il popolo abbandonato, gli zingari senza tetto, chi paga troppo affitto, chi non ha risorse né un centesimo né le scarpe, chi vaga nelle strade in cerca di una luce, chi non arriva mai alla fine del mese, chi riceve solo sputi, chi paga solo mutui, strozzato come un pollo da orizzonti vuoti. Dai, butta giù la pasta che abbiamo tutti, una fame brutta di libertà, una nuova speranza. Abbiamo bisogno di fratellanza. Dai, butta giù la pasta che abbiamo tutti, una fame brutta di libertà, di una nuova speranza. Abbiamo bisogno di uguaglianza. Chiama i tuoi fratelli, i brutti anche i belli, chiama le sorelle, soprattutto quelle che sono massacrate dagli uomini umiliate. Raggiungi nella rete i gruppi che hanno sete, passa parola passa, prepara le forchette, fai che sia una giostra, preparati alla festa. Dai, butta giù la pasta che abbiamo tutti, una fame brutta di libertà, di una nuova speranza. Abbiamo bisogno di fratellanza. Dai, butta giù la pasta che abbiamo tutti, una fame brutta di libertà, di una nuova speranza. Abbiamo bisogno di uguaglianza. Dai, butta giù la pasta che abbiamo tutti, una fame brutta di libertà, di una nuova speranza. Abbiamo bisogno di fratellanza.